Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non sono pochi, lo sapete, seguendo costantemente anche questo programma, i problemi grandi e piccoli con cui si sta misurando di questi tempi il calcio italiano. Oggi proviamo ad affrontarli con il vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Demetrio Albertini. Buongiorno Demetrio. Buongiorno a tutti. Senti, io faccio un cappellino non esattamente rasserenante, che è come competenza diretta riguarda la Lega più che la Federazione, ma che secondo me riguarda l'immagine del calcio italiano più in generale. E dato che la faccia è quella di tutti, compresa quella di noi operatori, insomma, mi sembra che queste due immagini ereditate dalle due prime giornate di campionato del nuovo anno siano significative. Si gioca ora di pranzo a Verona per Chievo-Inter, perché si tratta di sfondare in maniera definitiva sui mercati asiatici, dove la domanda di calcio è alta, e offriamo al mondo lo spettacolo di un campo dove si farebbe fatica a fare una partita di galline come regolarità di rimbalzi. Passano quattro giorni e la sfida, una delle tre sfide al vertice possibili del calcio italiano, cioè quella tra Juventus e Milan, si conclude con inquadrature ripetute su teppisti che incendiano seggiolini nella totale assenza di persone di guardia o comunque di controlli. Le uniche persone che si attivano, chi sono? Sono altri teppisti che, a faccia coperta ma anche scoperta, perché tanto ormai non è più un problema, vanno ad alimentare questo fuoco per bruciare meglio i seggiolini dello Stadio Olimpico di Torino. Ora, non voglio esagerare, ma ripeto, però la faccia è quella di tutti noi insieme. Sì, è vero. Aggiungerei anche un altro fatto molto grave avvenuto, che è quello dell'aggressione ai calciatori del Torino. Sì, un momento sicuramente non di sport, perché era un momento di vita privata. Di certo non è stato un bellissimo inizio di ripresa di campionato, soprattutto per l'immagine. Penso che tutti siamo uniti per cercare di risolvere qualcosa. È normale che bisogna prendere delle decisioni per poterlo fare, perché se no ogni anno, io sono abbastanza giovane, però ne ho vissuti di campionati, e alla fine, quando ricapitano queste cose, siamo sempre ad affrontarci cosa fare. No? Certo. Penso che, partendo dal primo punto, che è quello sicuramente dei campi, ci sono state denunce anche dei calciatori, ma i calciatori lo fanno da diverso tempo questa denuncia, di poter giocare su dei campi sicuramente migliori, perché anche questo è dovuta anche alla pausa natalizia, questo, perché il nostro clima, il nostro paese assolutamente non ci permette di poter giocare alcune partite, soprattutto al nord, perché al sud, se il clima è più clemente quando ce lo consente, di poter giocare su dei campi migliori. Ci sono tre fattori proprio sulla situazione dei campi, secondo me, che parliamo degli stadi, ma io inizierei coi campi, che forse è più semplice. Ma certo che è più semplice, anche perché l'iter mi sembra meno complesso, no? Anche da un punto di vista semplicemente, come dire, parlamentare, se parliamo di stadi, no? Visto che è lì che si è arenato il progetto al momento. Ma sai, ogni stadio ha delle criticità diverse, quelle del clima, quelle della gestione, perché sappiamo che gli stadi sono in capo a... sono in proprietà del comune, alcuni invece hanno la gestione delle società, e ogni campo ha delle sue criticità, quindi è sempre difficile pensare perché San Siro, perché Verona, perché Torino, non lo so, per fare tre nomi a caso, Genova, o comunque questi stadi che sono sicuramente più al nord. Io penso che bisogna agire rapidamente e velocemente in questi casi per tanti fattori. Io metto alcuni in particolare, quello prima di tutto dello spettacolo. Stiamo cercando di vendere anche le partite magari in Asia, certo. Visto che il nostro campionato è apprezzatissimo. Come no? C'è una domanda molto forte. Il problema è che se gli diamo queste sono solo cose negative. Ma no, difatti. Quindi, però pensare di accendere la televisione e vedere un terreno di gioco verde o un terreno di gioco marrone dalla sabbia, penso che sia diverso, certo. No? Vedere la partita, questo è uno. Lo spettacolo, perché il giocatore, specialmente se vogliamo dare lustro ai nostri talenti che abbiamo in Italia, giocherebbero meglio su un campo magari regolare che irregolare. Mi è piaciuta molto quella intemerata di Pirlo della scorsa settimana, quando, che anche noi al Sole abbiamo ripreso, quando Pirlo ha detto, senza tanti giri di parole, i nostri campi fanno schifo, è inutile che ci chiediate il gioco del Barça con la palla che corre rasoterra. Come facciamo a farla correre rasoterra? Io ho avuto la fortuna di giocare all'estero. I campi sono curatissimi, tanti stadi, adesso parlo della Spagna, che è quello che ho toccato direttamente, ma vediamo anche l'Inghilterra, vediamo la Germania, i campi sono sicuramente tenuti benissimo, gli stadi, qualche stadio è anche un po' più vecchio dei nostri, perché loro forse l'ultima competizione è stata fatta nell'82, no? In Spagna, per rifare i campi, certo. Hanno una situazione diversa perché sono campi di proprietà, ma penso che questo è il tema principale di vita o di morte del nostro calcio in questo momento. Ecco, tu hai detto bene di proprietà, perché io ho la sensazione che alla fine i comuni, con entrate uscite, con i problemi che hanno, non ne hanno più una che era fissa un tempo, non la nomino nemmeno perché sennò diventa un problema politico, però ci si riduce in pratica alle beghe che ci sono tra proprietario e inquilino in un appartamento, e cioè il mio riscaldamento non funziona, siamo così, no? Più o meno. Sì. Però la cosa che si parla sempre è l'aspetto economico, e non si parla mai dei vantaggi indiretti, no? Visto che vogliamo usare dei termini anche fuori, non calcistici. Sì. Vantaggi diretti sono tanti, abbiamo detto lo spettacolo, il valorizzare il lavoro dell'allenatore, quindi della squadra durante la settimana, perché se tu provi determinate cose poi dopo per il campo non riesci a farle, capisci che è sempre più difficile, no? Quindi, ho messo per primo lo spettacolo, perché penso che uno che va a teatro, e quindi il calcio, cioè spettacolo, debba assistere al gioco più divertente possibile, se no saremo sempre qui a dire che il calcio all'estero è un po' più divertente del nostro, anche se io ripeto sempre che il nostro è il più difficile. Sì. Poi un'altra cosa molto importante è la salute del giocatore, perché ci sarebbero meno infortuni, quando fa freddo, io lo so, ci si fa male più spesso, certo. Quindi è sempre difficile quello. E l'ultima cosa, che non è da meno, il calciatore è un investimento della società, un infortunio permette ancora di spendere più soldi perché deve andare sul mercato, perché magari manca il giocatore, uno dei giocatori più importanti, e queste cose sono dei valori indiretti che tutti, dallo spettatore alla società ai giocatori, porterebbero a casa avendo dei campi sicuramente migliori. Ci sono delle tecniche nuove, ci sono dei grandi professionisti, noi in Italia abbiamo dei giardini meravigliosi, facciamo diventare anche i campi dei bellissimi prati inglesi, no? Non dovrebbe essere impossibile, cioè se ci sono dei campi perfettamente verdi, come ha raccontato a questi microfoni il tuo vecchio amico Pincolini, oggi operante come preparatore atletico, il professor Pincolini alla Lokomotiv di Mosca, se si gioca su un perfetto manto erboso verde a 12 sotto zero in Siberia, diventa un po' difficile capire perché a Bari, a Napoli e in tutti i posti che hai citato prima si gioca invece su questi campi di patate. Partiamo sempre dal presupposto del tipo di investimento. Io penso che l'investimento sul campo, qualche volta, non per tutti, non bisogna generalizzare, venga sempre fatto in maniera secondaria. Sì. Ci si spaventa magari davanti a un investimento iniziale della cosa, però come ho detto, secondo me questo va fatto perché possa assolutamente avere dei benefici la società, tutti quanti, indiretti o comunque successivi. Se pensiamo a quanto costano ogni rizzollatura, ci si risparmierebbe magari in un momento fatto in un certo modo. Se pensiamo, come ho detto, a un infortunio di un calciatore, che tante volte quando ci sono degli infortuni poi dopo il recupero lo perdi per diversi, sono punti che perdi, magari perdi anche determinate cose. Quindi la convenienza sarebbe di tutti e sarebbe. Mi è molto piaciuta questa quasi invocazione di Demetrio Albertini, e cioè partiamo almeno dai campi se abbiamo un problema per gli stadi. Io ricordo la ristrutturazione della Scala nel 2001, la Scala vera, non la Scala del calcio. Nel 2001 per 3 anni si chiuse perché il teatro aveva bisogno di una ristrutturazione totale. Supponiamo che San Siro, per esempio, oggi, cioè la Scala del calcio, abbia bisogno di una ristrutturazione del Prato. A San Siro non si può più fare per via della copertura, è un altro discorso. ma insomma partiamo almeno dai palcoscenici, se non riusciamo a fare tutto il lavoro di gallerie, come si chiama, loggioni e platee. Mi pare questo il concetto, no, Demetrio? Invece io parto non dal palco. Dal palco? Dal palco è la cosa più importante, perché palco. Alla fine è lì che si fa lo spettacolo. Palcoscenico? Sì, quello è la cosa certo. Più, okay. Penso sia importante. Senti, e perché invece si è arenata per tuo la ristrutturazione dell'intero teatro? E cioè, sembrava che in Senato tutto fosse facile e tutto fosse addirittura d'arrivo, il progetto ristrutturazione stadi, anche in vista di candidature europee. Poi alla Camera si è arenato tutto. La federazione da che parte sta in questa vicenda? La federazione aspetta sicuramente agevolazione per poter ristrutturare i campi, quello non lo può fare la federazione, si è mobilitato tutto il calcio italiano per poterlo fare questo, la Lega, la federazione, i giocatori, gli allenatori, è normale che questo avviene negli altri posti e debba venire anche da noi, perché come ho detto è questione di vita o di morte per il proseguo del nostro sport, che è uno sport meraviglioso ed è uno sport, pur essendo un business, uno sport sociale, perché quando richiami 80, 50, 30 mila persone allo stadio, la responsabilità di tutti è anche proprio dell'aspetto sociale. Non c'è dubbio, io so che in questi giorni, ma anche in questo momento dovresti essere, no? C'era un'ora, se non ho capito male, ad un tavolo di lavoro per gli statuti federali. Un argomento che campeggia, oltre a quelli che abbiamo sfiorato o toccato o sviscerato sin qui, è certamente quello del razzismo. Mi pare che gli arbitri abbiano risposto in maniera molto, dal punto di vista mio, serio e responsabile, così come ha fatto il presidente Abete, ad una, credo, imperfezione informativa da parte del ministro Maroni. Ma tu che rappresenti in federazione la componente calcistica, cioè la componente calcistica e umana, quindi in maniera particolare, come ti poni davanti a sto problema? Ma, mi pongo semplicemente come prima di tutto uno spettatore e essendo stato anche in campo come un ex calciatore, quindi uno che magari ha vissuto delle contestazioni, chiamiamole così per non usare altre parole, sì. All'interno dello stadio, no? E quindi sul campo. Prima di tutto voglio, non è solo per questo argomento, ma per tutto, che i calciatori devono prendere sempre più coscienza di essere dei punti di riferimento per tutti e che fanno ruotare veramente tanti giudizi, non solo sportivi ma anche sociali. No? Sì. E quindi i comportamenti vanno sicuramente tenuti in maniera esemplare sul campo, questo dei comportamenti più che quelli sportivi. Dall'altro canto, altra situazione, dico che io avevo fatto una proposta, anche se dopo la fine va valutata bene, che è quella che i due capitani si possano anche incontrare, i giocatori più rappresentativi, tante volte non sono i capitani, quindi ci si incontra, se siamo gli amici, nel momento in cui tu dovessi sentire una situazione del genere, fermarsi anche 5 minuti per far capire anche alle altre persone che invece non stanno, diciamo, fischiando, facendo i vari bubù nei confronti di un giocatore, possano prendere coscienza che sta avvenendo qualcosa sugli spalti, che quindi non è di responsabilità dei calciatori in campo, di sbagliato. E questo penso che è una cosa, senza fermare la partita, senza uscire dal campo e annullare la partita, possa avvenire anche una presa di posizione del calciatore. Cioè un po' più di responsabilizzazione anche da parte di chi sta in campo. Perché... Sì, anche se, come dico, tutto se ne è parlato, se ne è riparlato, quindi non voglio riscendere in quello dettagli. Che ho detto. Mm-hmm. È normale che la responsabilità più importante in questo momento, in questa situazione, per le norme che ci sono vigenti adesso, sono del questore o comunque dell'addetto, certo, alla sicurezza del campo, perché proprio tocca a lui, posto che è un aspetto sociale, abbiamo talmente tante persone allo stadio che devono essere tutelate anche loro, no? Giusto. Tocca a lui, tocca al responsabile dell'ordine pubblico designato dal Ministero dell'Interno. Però tu dici, se in certi casi estremi, in certi casi particolarmente fastidiosi o disgustosi, costosi fossero due capitani o due giocatori che anche non hanno la fascia ma che ce l'hanno come leadership, a guardarsi in faccia e a dire adesso smettiamo qualche minuto a vedere se la smettono anche questi. Secondo me può essere un buon segnale. Molto bene. Senti, perché, non voglio metterti in crisi di rapporti né col tuo presidente Abete e nemmeno col presidente del CONI Petrucci, ma perché secondo te si erano così infuriabonditi quando Capello, tuo ex allenatore, aveva detto quella che in fondo purtroppo è un'ovvietà, e cioè che il calcio italiano è anche ostaggio degli ultra? Ma sai, noi siamo forse, bisogna vederlo proprio nell'aspetto sociale, noi siamo un paese dove abbiamo le curve, chiamiamole così per non nominare, quindi dei tifosi organizzati, che questi non vengono solo allo stadio, assolutamente si ritrovano, vivono il calcio anche durante la settimana, vanno a mangiarsi una pizza insieme e poi dopo finiscono qualche volta per colpa di pseudo tifosi a dover essere un po', che secondo me, schiavi un po' della massa, della curva, no? Della situazione. Sì. Per quanto riguarda, non mi sembra che le società siano schiavi un po' degli ultra. Penso che siamo un po' tutti noi italiani schiavi del calcio, prima di tutto, perché noi viviamo con delle pressioni in alcune città importanti, fatti da giornali, fatti da giocatori per dichiarazioni, fatti da allenatori. Cioè tutto sopra le righe, stai dicendo. È un modo di vivere nostro. Sì. Io non dico che sia giusto, no? Però non mi sento di dire che le società di calcio siano ostaggi dei tifosi in questo momento. Però, penso questo. Sì, però scusami, tu stesso all'inizio hai ricordato anche violenze particolari su cui, per esempio, il presidente Campana si è espresso nei giorni scorsi minacciando, e non è la prima volta, di arrivare anche alla sospensione dei campionati. Cioè non è pensabile che, indipendentemente dal rendimento di una squadra che può essere pessimo come è in questo momento quello del Torino, non è pensabile che dei giocatori vengano aggrediti in un momento di vita privata loro, con famiglie, con moglie e figli. Vuol dire che a questa gente o gentaglia si è dato un pochino troppo di margine, e adesso forse sarebbe ora di riprendere la situazione in pugno, no? Gigi, scusami, se non mischierei le due situazioni, anche se questi, chiamiamoli teppisti, sono presentati con le sciarpe del Torino. Sì. Perché una cosa è la contestazione e la critica, e questa va accettata nell'ambito sportivo. Certo. E quindi anche nel momento in cui sei allo stadio o fuori, e questa va accettata assolutamente. L'aggressione, questa va denunciata. Certo. Perché questa va denunciata dalla società, non calcio Torino, ma dalla società nostra italiana, civile, dove viviamo, certo, civile. Certo, certo. E quindi la presa di posizione dei calciatori, la presa di posizione della società, che erano turbati in quei momenti lì, che sono stato in contatto con il presidente Caro e poi l'AIC, anche con i calciatori in quei momenti, che io reputo difficili, però in quel momento lì i calciatori e la società ha dato un segnale di grande maturità, secondo me, in un momento difficile di decisione, che era quello di scendere in campo due giorni dopo. Queste vanno denunciate, va denunciato anche da quei tifosi che, secondo me, da quei tifosi del Torino, che in questo momento saranno delusi, saranno arrabbiati anche con l'andamento della stagione, ma devono prendere delle posizioni, certo, di distanza da questi atti. Ma entro certi limiti, giustamente. Demetrio, visto che la tua riunione incombe e il nostro appuntamento con i mercati pure, se da tutti questi problemi di cui si è parlato sino ad ora ti sollevi e ti proietti a 5 mesi per dare un'occhiata in Sudafrica, ti tiri sul morale in prospettiva, oppure pensi che, insomma, i miracoli non sempre si ripetono? Io mi tiro sul morale, perché una competizione come quella tutti la vorrebbero giocare, tutti vorrebbero partecipare. Ci sono delle grandi federazioni che non sono neanche al mondiale, no? Noi non possiamo sempre ricordare, per mettere delle pressioni, che siamo campioni del mondo solo in questi momenti. Dovevamo ricordarlo anche sempre, no? Di quello che abbiamo fatto, del cammino di questi ragazzi, che cosa hanno fatto, e che poi nello sport ti porta sempre il giorno, specialmente nel calcio, ti porta sempre il giorno dopo a rimetterti in discussione, certo, perché riscendi in campo. dopo, e quindi sei campione del mondo e hai più responsabilità di poter dimostrare di esserlo e di aver conquistato un grande con grande professionalità questo traguardo. Quindi il gruppo, cioè, c'è grandissima fiducia, perché quando si inizia un campionato del mondo è talmente affascinante, talmente bello, talmente importante per i calciatori, talmente importante per l'allenatore, per tutta la federazione, per tutti noi italiani è così importante. Penso che la cosa sul lato tecnico, la cosa più importante in una grande competizione come quella del mondiale, sia di avere un bel gruppo, di avere dei giocatori forti, quello sicuramente, però noi li abbiamo, e soprattutto che questi arrivino in, avere la fortuna che in quel mese siano nelle condizioni migliori. Io porto l'esempio del 2006, il Brasile sembrava a detta di tutti che dovesse uccidere il campionato del mondo. Verissimo. Sono arrivati in condizioni, dei talenti non si discutono, ma in quel mese lì non erano i veri talenti che abbiamo sempre apprezzato anche nel nostro campionato, di quei giocatori. I nostri giocatori, il gruppo c'era, bravi giocatori, forti giocatori, condizione ottimale per poter vincere un mondiale, l'abbiamo vinto meritatamente. È un ripasso che ogni tanto bisognerebbe fare. Ci sarebbe un altro ripasso se avessimo tempo, ma lo faremo alla prima occasione in privato, perché Albertini e io condividiamo un hobby, che è quello per il vino. La prossima volta parliamo di vino, di Priorat, di questa straordinaria regione catalana che mi hai fatto scoprire da un punto di vista enologico. Questa è un'intervista ufficiale col vicepresidente federale, non si poteva. Demetri, un abbraccio. Va bene, grazie. A presto. Ciao. Bella notizia di giornata, al di là della lunga conversazione con Albertini che ha riassunto un pochino i temi sul tappeto, la notizia di giornata è sgradevole, perché Francesco Flacchi è stato nuovamente trovato positivo a un controllo antidoping. Si tratta di nuovo di cocaina. Flacchi aveva già scontato una squalifica di 2 anni ed è risultato positivo a un controllo al termine di Brescia-Modena dello scorso 19 dicembre. I primi ascoltatori di oggi, Elio ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, io mi riferivo a quello che aveva detto il vostro ospite un attimo fa, parlando dei teppisti di Torino che hanno aggredito i calciatori, definendoli non tifosi. Sono tifosi che fanno parte della curva, che si presentano come tifosi e che fanno queste cose regolarmente tutte le domeniche. Cioè, non capisco questo cerchiobottismo, difendere la tifoseria ma accusandola quando fa comodo. Cioè, questi sono tifosi, sono quelli che occupano regolarmente le curve la domenica. Sì, non definiamoli in un altro modo, sono i tifosi, sono la curva. Beh, sono quelli che fanno sospendere le partite della Roma, entrano in campo e fanno sospendere i derby, come è successo 2 anni fa o 3 anni fa, se non mi ricordo. Sono quelli che fanno cambiare gli allenatori e sono quelli che si permettono di picchiare i calciatori. E questa è la società, è quelli, e sono quelli che mantengono, sono quelli che sono i mantenuti. Sì, dalla società. Non in tutti i casi. Insomma, io sono di Bergamo, vedo quello che succede a Bergamo. Sì. Il capo della tifoseria comanda, decide se il Conte deve andarsi o deve rimanere. Certo, Bergamo è un buon test da questo punto di vista. Ecco, meno male. Oggettivamente, no, ma su questo io sono abbastanza d'accordo. D'altra parte, è abbastanza ovvio che quando si parla con un dirigente federale si usino delle espressioni un pochino più sfumate, insomma, no? Mi sembra evidente. Posso dire l'ultima cosa? Sì. Qui tentiamo nel campo di fare la testa dal tifoso. La testa dal tifoso non serve. Le società sanno chi sono i 200 o i 300 individui da isolare. Se lo fanno, evidentemente non torna conto. Perché io che vado allo stadio alle 3 del pomeriggio, sì, e se non hanno... perquisisce, cioè, con essere il tifoso, a me, no, quando so che a Luna sono entrati con spranghe, bombe carte e senza che nessuno li abbia controllati, quei 200... Che la tessera del tifoso sia perfettamente inutile, siamo d'accordo, tant'è vero che per il momento è slittata, ma l'impressione è che lo slittamento sia sine die. Se questa era la trovata del ministro degli interni, in effetti non era certamente la panacea. È vero, cioè, ci sono delle criticità molto gravi da questo punto di vista, però Albertini ha fatto un discorso di società complessiva, lei la prende da un'altra angolazione. Io credo e temo anzi che tutti e due questi angoli di visuale siano ugualmente validi. Angelo ha chiamato dalla provincia di Pavia, buongiorno. Angelo aveva chiamato dalla provincia di Pavia, tra un po' verrà richiamato per per intervenire. È bella questa storia dell'esodo novarese che è in pieno svolgimento da Novara verso Milano. Insomma, Novara è una città satellite da un certo punto di vista, da un punto di vista lavorativo, rispetto a Milano. E ho letto stamane una bella intervista allo scrittore Sebastiano Vassalli che rivendica in un certo senso, spera in una piccola rivincita, visto le angherie da pendolari che Novara ha sempre dovuto subire nei confronti di Milano. Beh, insomma, in buona sostanza, tra poco più di un'ora a San Siro si gioca Milan-Novara di Coppa Italia, eliminatoria secca, e i novaresi stanno attuando una sorta di esodo verso San Siro, perché siamo nell'ordine almeno delle 7.000 unità, 7.000 persone che si muovono da una città per una partita di Coppa Italia pomeridiana in un giorno lavorativo sono davvero tante. Poi c'è un esodo che mi è stato segnalato da un fedelissimo ascoltatore romano, scoperto per caso stamattina presto: c'è un esodo in corso di un migliaio di persone almeno che hanno occupato un paio di treni delle Ferrovie dello Stato, sono tifosi del Napoli che si stanno recando a Torino per la partita di Coppa Italia, e ci sono già stati un po' di problemi, non incidenti al momento, non vengono segnalati per fortuna, ma di problemi per i pendolari del mattino che sono stati, come dire, espropriati dalla salita in massa su un paio di treni da parte di questi tifosi napoletani. Roberto ha chiamato da Piacenza, buongiorno. Eccomi qua, Garanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io volevo parlare di un argomento molto, molto di moda, la Juve, no? In modo molto sintetico, proprio per fare un semplice ragionamento. Io sento una lista interminabile, ho sentito una lista interminabile di allenatori che dovrebbero sostituire Ferrara e che hanno determinato una confusione nei dirigenti della Juventus. Secondo me i dirigenti della Juventus non sono confusi sul nome dell'allenatore, ma sono confusi se far abortire un progetto nato quest'estate o farlo continuare. Il progetto ovviamente ha un nome e un cognome, che è Marcello Lippi, e lo verificheremo prestissimo, perché se lui conferma, cosa improbabile, Ferrara o mette un traghettatore come Zoff, il progetto Lippi è abortito. Se mette Hiddink, che è l'unico disponibile accettabile sulla piazza adesso, vuol dire che il progetto Marcello Lippi è tramontato, con mio piacere da tifoso di calcio in generale. C'è un'altra, le interpretazioni possibili sono tante. Io tra le tante mail ricevute c'è questa firmata Raffaele Apostoliti, che stamattina mi ha, insomma, è una riflessione interessante. Non nota, scrive questo ascoltatore, che ci sia una sorprendente analogia tra la Juve di oggi e quella di ieri nel seguire pedissequamente moda e modelli senza alcuna seria comprensione di certi fenomeni, e poi esemplifica: la Juve di oggi si è affidata a Ferrara pensando che qualunque giovanotto possa replicare i successi di Guardiola, quella di ieri si era affidata a Maifredi illudendosi di aver trovato un altro Sacchi. Devo dire che questo parallelo ci sta, e come. E c'è un altro punto in comune, che in entrambi i momenti la Juventus, che ha sempre fatto della competenza al vertice il suo punto di forza, in entrambe queste situazioni la Juventus si era affidata a due, senza offesa per nessuno, incompetenti. Tocca a Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, una riflessione: io mi piace il calcio, ma sono abbastanza distaccato. Mi ha stupito una trasmissione televisiva di un paio d'anni fa circa, che stavo seguendo per puro caso, le solite trasmissioni in cui alcuni personaggi seduti sprolottano, ed era successiva ai fatti in cui fu ucciso quell'ispettore di polizia, mi pare Raciti, se non ricordo male. Bene, si partì dicendo: ah, scandalizzati, come hanno fatto ad eliminare il problema, di calcio, eccetera, eccetera, con la forza, con un magistrato presente agli stadi, addirittura, se non ho capito male, con una cella a disposizione per imprigionare gli scalmanati sul momento. Così era schifato gli Uliga. Tutti d'accordo, nel giro di un quarto d'ora, piano piano, e però accidenti, anche questa prevaricazione sulla libertà, eccetera, eccetera, dopo mezz'ora era finita la luce a vino. Ora, a me pare che in Italia ci abbia questo vezzo: ogni volta che accade qualche fatto eclatante, tutti i giornali, giornalisti, addetti e non addetti ai lavori, alzano le piume e volano alto. Dopodiché si tende sempre a difendere il perdente, diciamo così, si trova la giustificazione per ogni imbecille e non si ha il coraggio di chiamare imbecille chi è imbecille. Cioè in Italia se uno è un imbecille e glielo si dice si corre sì, ma non è, intanto non mi sembra il termine più appropriato, Claudio, però non, questa è una responsabilità che non credo possa essere attribuita all'informazione. Cioè, l'informazione informa, poi può farlo più o meno in maniera più o meno completa, in maniera più o meno corretta, anche in qualche caso, se vogliamo. Però non tocca all'informazione agire, certamente, e non è l'informazione a esibirsi in quei proclami che lei ricorda bene, per esempio, dopo l'ultimo caso grave, dopo l'ultimo caso mortale, che fu quello dell'ispettore Raciti. Sono altri che in quel momento invocano la tolleranza zero, no? E poi la tolleranza diventa 1, diventa 2, diventa 3. Attualmente siamo più o meno a tolleranza 15, grosso modo. Se, e leggo un'altra mail che arriva da Gabriele, provincia di da Lucca, dice: abbiamo saputo ieri dalla sentenza del giudice sportivo che divellere seggiolini, dargli fuoco, lanciare fumogeni e petardi, uniti a cori razzisti, perché quelli non si fanno mai mancare, costa 40.000 euro. Complimenti all'illustrissimo giudice sportivo, eccetera eccetera, con altre considerazioni. A che cosa si riferisce l'ascoltatore? Si riferisce al fatto che non sono mancati fatti gravi di violenza, di intemperanza, ma anche di violenza a Torino domenica sera, e l'ammenda inflitta per, leggo il dispositivo della sentenza, l'ammenda di 40.000 euro inflitta alla Juventus perché i suoi sostenitori hanno acceso sugli spalti vari fuochi, hanno lanciato 6 fumogeni e bengala sul settore ospiti, hanno intonato un coro razzista nei confronti di Dida. Beh, manca come minimo la parte che, secondo me almeno, che quei fuochi sono stati ulteriormente alimentati in fase successiva, l'abbiamo visto in diretta televisiva, da pregevoli volontari. C'è una media di 20.000 euro anche per il Milan, perché i sostenitori hanno lanciato fumogeni e petardi di bengala in un settore occupato dai sostenitori avversari. Beh, insomma, se pensiamo, non sono cifre da poco, ma sono cifre sproporzionate rispetto agli introiti, rispetto agli incassi, rispetto a quanto si deve poter provare a fare per una misura deterrente nei confronti di questi casi. Dall'altra parte è anche vero che più le multe sono pesanti e più cresce il potere ricattatorio di questa gente che queste cose le fa per punire le società, no? Per punire le rispettive società o per meglio ricattarle. È un cane che si morde la coda, da cui non sarà certamente facile uscire. Giovanni ha chiamato la Novara, buongiorno. Buongiorno, le faccio i complimenti per la trasmissione, dovuti, e entro subito nell'argomento. Io sono uno dei pochi novaresi che non andrà a vedere la partita oggi per motivi di lavoro, ma volevo sottolinearle questo, che questo per Novara è una specie di festa ed è la punta di un iceberg di un movimento sportivo che a Novara si sta sviluppando grazie, diciamo che il Novara Calcio e l'Asister di pallavolo femminile forse sono le punte. Ma a Novara negli ultimi anni credo che possa essere presa come esempio di come quando la città, quando i dirigenti sportivi, quando l'amministrazione stessa sono attente ai problemi dello sport e ai problemi dei giovani, si possono ottenere grossi risultati e si possono fare grandi cose. Le dico in un minuto solo, Novara ospiterà per esempio, tanto per dirne una, il campionato europeo juniores di nuoto. Farà il primo Memorial Castagnetti, che è l'allenatore di nuoto che è deceduto poco tempo fa ed è stato assegnato a Novara, ed è per la città un onore avere questa cosa, ma soprattutto c'è un grosso movimento e credo che oggi sia la festa dello sport di Novara ed è credo che molti possano prendere esempio da quello che sta facendo la città, i cittadini e i dirigenti per sviluppare lo sport. Giovanni, mi scusi, lei è rimasto a Novara perché deve pattugliare l'ufficio del turismo della promozione turistica della città? No, guarda, io faccio tanto di mestiere, per ma cui no, non... è una battuta, no? Se vuole che ne dica una cosa, Novara no. Per esempio come difetto non ha una recettività alberghiera tale da poter poi supportare tutto questo sviluppo che c'è nello sport. No, d'accordo, d'accordo. Ci sono anche dei problemi, ecco. Certo, come ovunque. Giovanni, grazie. Ci spostiamo a Milano, dove troviamo Giorgio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Due considerazioni veloci sulla Juventus e sul razzismo. La prima sulla Juventus, non so se si ricorda, l'anno scorso quando è stato esonerato Ranieri, sui giornali è uscita una dichiarazione di Del Piero in cui aveva mandato un sms a Ferrara dicendo: sono stato il tuo capitano, con te torneremo a vincere, una cosa del genere più o meno. Secondo lei che credenzialità può avere un allenatore così nello spogliatoio, pur sapendo che Del Piero gli manda certi messaggi e ha un certo rapporto con l'allenatore? Secondo me gli arbitri col problema del razzismo si lavano un po' le mani, perché ok, loro non devono sospendere le partite, però se uno magari prende l'iniziativa per determinati cori, sospende la partita, non penso che gli venga fatto nulla di male. Potrebbero essere passibili di incriminazione per interruzione di pubblico servizio. Lei le conosce le associazioni dei consumatori nel nostro paese? Io credo che un abuso d'ufficio, un'interruzione di pubblico servizio gli potrebbe anche arrivare, fermo restando che a me sembra davvero la componente che meno dovrebbe essere chiamata in causa per questo. E ho molto apprezzato quello che ha detto Albertini prima, quando ha osservato che in determinati casi forse se si guardassero in faccia i giocatori, i capitani o i più rappresentativi, ha specificato che non sempre coincide con la fascia al braccio, e decidessero di fare qualcosa in quel momento, potrebbe non guastare. Io la vedo molto più così, cioè l'ordine pubblico lo gestisce lo Stato, i reati li individua o li fa punire lo Stato e poi decide e poi legittima l'arbitro a intervenire, visto che il direttore di gara in quel momento è l'arbitro, ma i calciatori potrebbero provare a fare anche la loro parte. Ripasso data 13 gennaio, Nicola Filippone. Sembra ieri. 13 gennaio 1907. Al velodromo Umberto I di Torino va in scena il primo derby della Mole. Secondo alcune cronache dell'epoca, l'edizione numero 1 della stracittadina piemontese avrebbe avuto un prologo curioso. Il presidente dei Granata, lo svizzero Alfredo Dick, già tra i fondatori della Juventus, sarebbe stato chiuso nello spogliatoio da alcuni dirigenti bianconeri. Dick non avrebbe così potuto assistere alla vittoria del Torino per 2-1, un successo che porta le firme di Federico Ferrari Orsi e Hans Kämpfer. Nicola Filippone è carina davvero, fa venire in mente anche, evoca un'altra, come dire, un'altra chiusura in spogliatoio in tempi più recenti e molto più grave, mi pare di capire, di questa, anche se poi ciascuno può fare le sue valutazioni. Qualche intervista di vigilia adesso, prima di altri ascoltatori. Beh, intanto sentiamo quella testuale in cui Ferrara fa questo parallelo con Rocky. Ieri un amico mi faceva notare questo, ha detto: sei come Rocky in questo momento, prendi cazzotti, però è effettivamente una giusta, un paragone, sto prendendo cazzotti, no? Sono pieno di sangue evidentemente, ma continuo a dire non mi fai male, all'avversario chiaramente, ed è così, tira più forte perché non mi stai facendo male in questo momento, non c'è niente che possa buttarmi giù. Mia mamma me le dava più forti, diceva Rocky. Un messaggio firmato Marco da Milano dice: effettivamente sono uno dei pochi milanisti che sta andando allo stadio in questo momento. Vabbè, c'è tempo, perché manca 1:10 all'orario di inizio della partita. Però insomma, la possibilità che siano i novaresi addirittura in maggioranza allo stadio di San Siro esiste. E d'altra parte, rispetto ad alcuni quartieri o alcuni sobborghi di Milano, Novara è più vicina, cioè San Siro è più vicina a Novara, è più comodo comunque per i novaresi che non per chi arriva da est, per esempio. Sentiamo la vigilia anche di Mazzarri, visto che la partita in questione è Juventus-Napoli. Sono venuto a Napoli, sono felice di stare a Napoli, comunque, come andrà, dopo, prima, le scelte io le faccio così, senza stare a fare tanti calcoli. Quando una cosa la senti, ti piace, vai. E fino ad ora sono stato anche ripagato. Spero, è chiaro, io sono uno che non mi accontento mai, vorrei sempre fare il massimo, per me, per la mia società, per i miei giocatori. Non mi pongo obiettivi, cerco di andare più in alto possibile in base alle forze. Ecco, vorrei sempre che il lavoro mio fosse valutato in questo senso, anche con obiettività nel valutare le forze che ho a disposizione in rapporto al campionato che facciamo e alle altre squadre. Questo è che mi piacerebbe ci fosse un pochino più d'attenzione. sentiamo ancora a questo punto, così completiamo la vigilia di Coppa Italia, e sentiamo ancora Leonardo sulla Coppa Italia e su questa sfida contro il Novara. Coppa Italia sicuramente, qualsiasi competizione va collegata all'interesse delle persone e quello che può essere il ritorno, no? A una società. Però per me quello che vuol dire è sempre una partita. Io mi ricordo da giocatore che tu cominci a dire sì, Coppa Italia no, ma vai in campo è la stessa cosa. E quando entri in campo devi correre, deve essere dribblato o dribblare, deve marcare o essere marcato, non è che cambia tanto. E lì hai voglia anche di mettere il tuo livello individuale e il tuo livello di squadra. Per quello io credo che a prescindere di quello che è l'importanza della competizione, quello che fa veramente grandi tutti è la consapevolezza di quello che devi fare te. Già collegati da Torino, Franco. Buongiorno. Dica. Due risposte vorrei da lei. Allora, quando Oliviero Bea, qualche anno fa, quando erano stati silurati Moggi e Giraudo, aveva detto: ma io non capisco perché rimane Bettega, perché delle due una, o non sapeva niente e allora non era molto in gamba di quello che orchestravano i due compari, oppure lo sapeva e allora dovrebbe andare via. Lei che cosa ne pensa col ritorno di Bettega? Io penso secondo me facevano più presto a chiedergli il telefonino di Moggi senza buttarselo in corso Galileo Ferrari. No, io credo invece che fosse esatto quello che credo che sia giusto quello che hanno valutato i giudici sportivi sulla base delle intercettazioni, perché questo è stato poi un processo e una rivoluzione che, se vogliamo, che su quello si è basato. Era emerso chiaramente che Bettega era una figura più rappresentativa che non operativa, e che comunque tutto, quando c'era da sporcarsi le mani se le sono sempre solo sporcate altri e non Bettega, perlomeno è questo è quello che emerge. Poi sull'opportunità di ripescare un personaggio che comunque aveva avuto a che fare con quell'epoca e ci aveva avuto a che fare anche a livello operativo con il distinguo iniziale, che torno a sottolineare, l'opportunità si può discutere, ma dall'opportunità al coinvolgimento mi sembra ci sia una notevole distanza. Francesco ha chiamato da Salerno, buongiorno. Salve, buongiorno a lei. Dica. Complimenti innanzitutto per la trasmissione. Volevo porre un quesito. Io martedì 5 sono andato a vedere la partita allo stadio, nella squadra, la Salernitana. E ci sono stati lanci di oggetti, ma saranno state 6-7 bottigliette in campo. E il giudice sportivo ha dato 30.000 euro di multa alla Salernitana. Ora ho sentito in diretta che la Juve ha preso 40.000 euro per quello che hanno combinato i tifosi. Volevo capire un po' il metro di misura di questo giudice, qual è? Cioè, ma ci sono due mesi di misura veramente su tutto oggi in Italia, è possibile? Io li ho un po' smarriti i parametri di riferimento del giudice sportivo, li ho smarriti in particolare la scorsa settimana quando ho visto infliggere 7.000 euro di multa a Balotelli per essere uscito zittendo dei tifosi che lo stavano insultando e insultando per quale ragione. Da quel momento ho perso un pochino i riferimenti, ho anche ricevuto delle mail dall'estero su questo di persone abbastanza... un po' più che sorprese, ecco, da questa decisione, per cui non saprei risponderle sinceramente. Alberto ha chiamato da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo fare tre domande se possibile. Allora, la prima è che non riesco a capire questa proprietà, che sono tifoso juventino, non riesco a capire questa proprietà perché questa dirigenza, una volta che si è constatato che è incompetente, si dovrebbe sostituire, perché se io non sono bravo nel mio lavoro mi declassano o mi licenziano, è la peggiore ipotesi. Uno se ne dovesse, andiamo per capitoli, se in questo paese se ne dovesse andare volontariamente chi è incompetente, ci sarebbe un esodo di massa, credo che sarebbe difficile circolare per strada. Prima, seconda, uno che faceva le fotocopie prima, dai, cioè non è possibile. Chi è che faceva le fotocopie? E Secco cosa faceva? Faceva le fotocopie, passava i fogliettini per i campi dei giocatori, cioè è un po' strano. Ma tutti hanno cominciato, cioè le... Sì, ma non ma è che non nessuno... dalla Juventus. Ma non, cioè, non... uno va a fare apprendistato nel Parma, nel Livorno, senza... Ma se invece succede un fatto traumatico come accade nel 2006, può darsi che l'apprendistato lo faccia lì, come l'ha fatto tanti altri, e neanche nemmeno poi così male se non c'era un po' degli errori successivi. Comunque questa era la prima, ce n'è ancora altre due, temo, no? Sì, un'altra. Io non capisco perché si continua a dire i giornali, continua a dire che chi comanda la Juventus è Blanc e John Elkann, cioè quando sanno tutti che è Montezemolo, Grant Stevens che hanno combinato il Rebelotto, che hanno combinato nel 2006 non appellandosi al TAR e mandando la Juventus. Il Rebelotto. Il Rebelotto, quello hanno combinato, perché se si appellavano al TAR di sicuro Juve non finiva in Serie B, come fece Gaucci. Giocava in C2 Alberto, non possiamo riscrivere, no, la storia. Se la Juventus non si accontentava di quella sanzione, avrebbe rischiato la C2, come allora si disse, si scrisse e come allora si sapeva. Di fronte a quel rischio accettarono la Serie B, e comunque non vedo perché adesso, che è quello che conta, perché poi il torcicollo all'indietro non porta mai da nessuna parte, no? né la Juventus né chi che sia, quello che conta adesso mi pare che invece sia esattamente il contrario di quello che dice lei, nel senso che quelli che comandano sono certamente la comandano, insomma, comunque che hanno in mano la gestione della Juventus è certamente Blanc, che ha al momento l'avallo della proprietà rappresentata dai fratelli Elkann in maniera peculiare, in maniera principale, quindi non capisco queste riscritture, insomma. Davide da Vicenza, a chiudere con una certa brevità. Sì, buongiorno, è solo un appello ai tifosi in generale. Io sto andando a prendere i biglietti per vedere Chievo-Juventus domenica prossima, vado con mio figlio, sono un simpatizzante juventino. L'appello è di andare a vedere una partita di calcio, di stare tranquilli, di divertirsi, di ricordarsi che alla fine di un campionato ne comincia sempre un altro, certo. Quindi ci sono opportunità per tutti. Grazie Davide, c'era Carmelo Lauricella in regia, c'era Franco Piantanide in redazione. Domani parleremo di orari di campionati e di nuove e ulteriori spalmature. Buon pomeriggio.